Italians. Italienne. Italianas. Italienische. Italianisch. Italvi. Italiago. Con la valigia. Buongiorno. Buon pomeriggio. E buonanotte. Eccoci qui, siamo tornati con Italiani con la valigia, con una nuova puntata, una nuova ospite. Oggi dove andremo, care ragazze? Lo devo dire io o lo dite voi? Dai, oggi lo dici tu. Ah, devo dire io? Dai, vediamo se ti ricordi. Stavo cercando di fare una musichetta, ma no, va bene. E quindi il rullo di tamburi, andiamo. Anche il tamburo, secondo me. Brava. In India, Mumbai. No. Mumbai. Siamo andati di nuovo al caldo. Sai che a noi piace fare un po' le schizofreniche. Facciamo di solito una settimana tipo Canada, Russia. Non è che ci piace farlo. Posti meravigliosi e una settimana nel deserto, così esatto. A caso. Diciamo che più che ci piace, piace a te, Deborah, giusto per spiazzarci un po' noi due, perché la realtà da oggi andiamo e tu sei pronta ad andare in Canada, India. Ci piace riempire le nostre valigie, andare chissà dove, ovunque, sempre in un posto diverso. Esatto, un biglietto open per il mondo intero. Allora ragazze, io quello che mi sono sempre chiesta è come la gente possa sopravvivere a fare il bagno nel Gange. No, perché considerando il mio stato... Le persone che vivono lì hanno delle difese immunitarie. È per quello che non sono mai andata, perché mi sento che andrebbe veramente male. Non so se ritornerei. Forse no. Con la gastro ricorrente, no. Guarda, io ho allestito una mostra di un fotografo abbastanza conosciuto a Parigi. Ha fatto fotografie nel Gange durante una preghiera. Tutti gli indiani nel fiume, nudi, a bere l'acqua, mentre passavano carcasse di mucche. Madonna. Lui ha detto che non ha neanche praticamente respirato, che aveva i guanti così e ha avuto una dissenteria 3 settimane continua, arrivato. Gli altri saltellavano dentro al Gange. C'è anche un po' il peperoncino di mezzo. Sì, bevevano l'acqua. Comunque ci sono delle debolezze fisiche per le quali non puoi farci niente. Un nuovo metodo di tortura, infilare una persona dentro una classe d'asilo. La cosa è che dicevi tu, quello era peggio. È giusta, nel senso, qualcuno dice perché nei paesi caldi mangi le cose super piccanti? È proprio per disinfettare. Il rimmel viene dalle donne di base indiane, perché il rimmel era per disinfettare le sopracciglia per i microorganismi, lo so, pidocchi, cose wow, che ti possono infettare gli occhi. Quindi questa è figa. Il rimmel le disinfetta. Infatti, le ciglia, mi disinfetto costantemente. Nel caso, non si sa mai. Non si sa mai. Esatto. E nel caso oggi sentiamo anche Anastasia, che è la nostra ospite del giorno. Lei abita a Mumbai, sta per fare qualcosa di straordinario, cioè sta per avere un bimbo, appunto. No, in India. In India. Madonna, e non è tanto che pensare. Lì la nostra Anastasia, tra l'altro, ci spiegherà poi lei la sua storia, però quando si è introdotta per partecipare alla trasmissione, ci ha mandato la mail, la prima cosa che ha detto facciamo presto perché devo partorire, quindi siamo andate subito in express da lei. Questa la esatto. Voglio sentire. Sì, ve lo consiglio, sentiamola tutti insieme, andiamo da Anastasia, andiamo a Mumbai. Ciao Anastasia, benvenuta. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Allora, raccontaci un po' da dove vieni, da che città e come mai ti trovi a Mumbai. Io vengo da Milano, anche se sono pugliese di origine, mi trovo a Mumbai perché è la città dove sta in questo momento lavorando mio marito, quindi l'ho seguito in questa pazzia, non lo so. In realtà avevamo appunto intenzione di lasciare l'Italia entrambi e l'India è stato il primo paese che ci ha fatto un'offerta irrifiutabile e ci troviamo qua. Da 7 mesi che non sono tantissimi. Quindi tuo marito che lavoro fa? Mio marito fa il colorist, lavora nel campo della pubblicità. Praticamente si occupa di migliorare la luce, la color dei video, della pubblicità in particolare, ma anche di videoclip, documentari. Ma per l'India o per l'estero? No, per l'India, per uno studio indiano molto grosso, con della strumentazione pazzesca, non sembra neanche di stare a Mumbai. Proposta di lavoro, fai le valigie e partite. Esatto, dopo un tira e molla durato mesi, il capo delle risorse umane ha avuto un modo tutto suo di fare queste proposte lavorative, tipo si faceva sentire a febbraio e poi si faceva risentire gli ultimi di aprile, quindi non capivamo niente. Poi di colpo a ottobre ci hanno dato 3 settimane per venire qua. Quindi un ultimatum, venite o... Esatto, avete tempo per stare qui i primi di novembre. E poi tu eri incinta già. Ma io non lo sapevo. Ah. Io ho scoperto di essere incinta la sera prima del volo. Ti sarei sparata. Guarda, un colpo posso in dire testa. Ragazze, però c'è qualcosa che non va. C'è sempre questa sera prima, il giorno prima. Io ho scoperto veramente il giorno prima di sposarmi. Anch'io, già il giorno prima di partire. Già l'abbiamo sentito il giorno prima di trasferirsi per il Canada. C'è un qualcosa. Non lo so perché, ovviamente avevo un ritardo, cioè, però dicevo, ma vabbè dai, sarà il solito, poi a Milano con lo stress, quelle cose classiche. Ma scusa, ma cosa hai pensato? Vado a partorire in India, non ti sei... In realtà, allora... Aspetta, vado a passare i primi 3 mesi con le nausee in India. Madonna, prima di tutto il mangiare, le malattie, poi noi italiane, la tosse. Cioè, vabbè, i primi 3 mesi ve li risparmio, ragazze, sono stati abbastanza... Grazie. Duri. Cioè, gli odori, eccetera, mi hanno reso tutto molto complicato. Poi mio marito lavorava tantissimo, e quindi durante il giorno me la dovevo un po' sbrigare da sola. Tra l'altro ci abbiamo messo un sacco di tempo per trovare una casa che potesse essere degna di essere chiamata tale, quindi abbiamo vissuto in albergo 1 mese e mezzo, quindi io che andavo disperatamente a cercare dei crackers in giro che non sapessero di coriandolo, aglio, aromatizzati alcune volte, quindi vabbè, lasciamo perdere. Potrei osarti dire che secondo me è femmina. Lo penso anch'io in realtà. Vedi? Io ho maschio e una femmina, ho avuto nausea pari uguali tutte e due, nausea di mio marito. Ho avuto i primi 3 mesi nausea anche dell'odore del marito. Mia nonna ha detto è normale. Mai sentita sta cosa? Ti giuro. Dimmi, raccontaci, tuo marito riesce a odorarlo? Allora, no, perché lui passando molto tempo fuori, quando rientrava aveva questo odore. Sono di larghissime vedute, ero già stata in Asia, quindi un po' ero più o meno preparata. Qua la situazione è un po' hardcore, diremmo noi, nel senso che quando lui tornava a casa, comunque per quanto si fosse profumato la mattina, la sera aveva l'odore di India, dico io, che è proprio quello inconfondibile, quindi so. Doveva stare lontano fino alla torta. Odand. A Mumbai in che quartiere vivi? Noi viviamo a Bandra West, che è in realtà chiamata The Queen of Suburbs, cioè come se vivessimo in realtà fuori Mumbai. Non è propriamente così, cioè siamo comunque a Mumbai città, e peraltro questo è il quartiere cattolico di Mumbai ed è il quartiere dove si vive meglio, le strade sono a posto, anche in vista del monsone che sta per arrivare tra una decina di strade giorni. A posto vuol dire che sono cementate, perché so che esatto, la maggior parte delle strade sono sabbiose, quindi è un piacere passeggiare. Perché tu conosci tanti indiani? Siamo stati abbastanza fortunati, devo dire, a questo punto la metto come fortuna, perché conosco invece tanti altri italiani o anche expat di altre parti del mondo che non hanno tante conoscenze indiane. Noi abbiamo tutta una serie di amici indiani che sono i colleghi di Diego, tutta gente comunque che ha viaggiato, è abbastanza aperta, con cui quali riusciamo anche ad affrontare discorsi spinosi, diciamo, dell'India, perché devo chiedere, sai, il matrimonio combinato, quello come funziona. Insomma, sei in piena scoperta di questo paese, esatto. In poche parole. Io volevo chiederti com'è la tua giornata tipo, ti svegli la mattina, cosa fai? Soprattutto chi ti sveglia, il clacson, il rickshaw? Già dalle 5 del mattino si può più dormire praticamente, perché c'è un rumore pazzesco, l'inquinamento acustico è una piale praticamente, c'è anche un po' l'effetto giungla, corvi, aquilotti, falchi sul balcone, quindi ma vabbè. Quindi vive in una zona verde? È una zona un po' più verde del resto di Mumbai, che ormai è un cantiere a cielo aperto. Sì. Ragni! No, per il momento non particolarmente. Credo che durante i monsoni sarà un problema serio, quello delle zanzare. Vedi com'è interessante vedere il tuo punto di vista, perché uno ha sempre questo immaginario del sentito dire, invece la realtà è ben diversa. Eh sì, è ben diversa. Anche quello che si legge, tipo a Mumbai, la città dove si può vivere con 2 euro al giorno. Anche qua, sai, si può vivere con 2 euro al giorno. Anche nella cotta azzurra. Invece non è vero, perché Mumbai è carissima. Queste cose sono abbastanza sconvolgenti, te ne rendi conto appunto solo vivendole. Ecco perché dicevo, ci sono stati poi degli aspetti che però mi hanno colto in contropiede. Ma non si è mai preparati abbastanza poi per vivere una vita comunque all'estero, in un paese così diverso. Volevo anche chiederti com'è la vita notturna di Mumbai, ne avete approfittato soprattutto sapendo che poi voglio dire la vita cambia un pochino, no, relativamente. Ci aspetta una vita in ritirata. No, non totalmente, però sicuramente non è facile. Siamo fortunati perché questo è il quartiere dove si concentra un po' la vita notturna dei ragazzi, dove ci sono i posti per andare anche a ballare, eccetera. In realtà da questo punto di vista è molto attiva Mumbai, sono degli eventoni nei quali si concentra tantissima gente. Abbiamo frequentato, devo dire, abbastanza fino a che c'è stato possibile, perché poi qua muoversi non è proprio sicuro, ecco, vista la guida indiana, penso famosa in tutto il mondo. Guidi? No, assolutamente. Ma scherzi, ma sei guida fai. Neanche il marito è un ottimo guidatore. Veramente. Addirittura. No, non ci pensiamo minimamente, assolutamente. Siamo forse gli unici occidentali a non avere un driver in queste città, perché ci siamo spostati fino a poco tempo fa con i rickshaw, proprio perché ci piaceva fare. Cosa hanno i driver privati, gli autisti privati? Eh sì, il driver è una delle professioni più diffuse qua, più comuni, proprio perché guidare poi a Mumbai è proprio da parte. Quindi se tu non ti sposti col drive o col rickshaw, non ci sono mezzi pubblici, come fate? Allora, i mezzi pubblici che ci sono sono degli autobus sgarrupatissimi che camminano. Capito. con le porte per aperte, miracolo. La gente arrampicata fuori. Io non l'ho mai preso perché mi è stato consigliato di evitare di prenderlo, almeno per il momento. Ci siamo spostati a piedi o ci spostiamo col taxi o ci spostiamo per i brevi tragitti con i rickshaw fino a qualche settimana fa. Adesso ormai non ci più. Tra l'altro tu partorirai in India, esatto. Ci avevi detto precedentemente, hai già scelto l'ospedale, com'è questa nuova esperienza poi? Adesso abbiamo imparato ad accettare tutto quello che comportava la sanità indiana, nel senso, ovviamente siamo in una clinica privata, perché la sanità pubblica non è lontanamente affrontabile per un occidentale, neppure visivamente, come strutture intendo. Tra l'altro anche gli stessi indiani, che abbiano un tenore di vita un attimino più alto, diciamo, non si affidano alla sanità pubblica, che comunque penso che sia giusto che affronti emergenze ben più gravi al costo che ha, perché è appunto una struttura sanitaria privata. In India comunque la sanità costa, anche i farmaci eccetera, anche per i più poveri, comunque tutto a pagamento, lo Stato non si interessa della popolazione, e infatti poi sono ancora molto diffuse delle malattie che sono state quasi debellate, insomma, no? La poliomielite, io sono stata vaccinata durante la gravidanza per il tetano, che vi lascio immaginare quale ansia per certo. Me abbia determinato e quale ansia mamma mia. Abbia ancora, però devo dire che per il momento i professionisti che mi hanno seguita in questi mesi sono stati molto bravi. Diciamo, sei più rassicurata, diciamo, nella tua. Sì, non è ancora finita, però per il momento. Pensiamo positivo, che è importante. A proposito di positività, c'è la domanda di Maddalena, solita, tradizionale, vai. Che non tutti capiscono, vediamo, secondo me capirai tu. Fammi un'istantanea, una fotografia del momento. La fotografia del momento è una bella Polaroid, nel senso, qui sono quasi le 19 e mio marito è già a casa, che è una cosa stupenda, perché a Milano noi ci vedevamo 2 ore durante tutta una settimana con i nostri rispettivi lavori. Dalla finestra del mio soggiorno, questo spettacolo verde con le palme. I vantaggi di Mumbai sono stati sicuramente quelli di recuperare il proprio tempo, di recuperare la propria vita familiare anche, che avevamo assolutamente perso, di recuperare anche un po' la gioia delle cose semplici, delle piccole cose. Mi sono una cosa, nome, sei maschio o sei femmina? Ah, guarda, sono per il momento top secret, perché abbiamo solo deciso questo, che se maschio scelgo io il nome, se femmina lo sceglie mio marito. Ah, vabbè. Va bene. Dai, lasciamo la sorpresa, poi ce lo dirai una volta nato. Va bene. Grazie tanto. Ciao, bocca al lupo. Ciao ragazzi, ciao. Una ragazza bella forte che ha preso, è partita incinta a seguire il suo marito, a mangiare cose nuove, insomma, noi che siamo sempre qui, no? Schizzignose. Appena rimaniamo incinta, non posso mangiare quello, la macchina. Lei arriva in un paese dove non conosce nulla, dove non è neanche autorizzata a sapere il sesso del proprio figlio. Pensa un po' te, sì. Una cosa scioccante, sì. Però una legge che protegge poi, spero, anche sì. le bambine, perché sappiamo ci sono situazioni particolari legate a cultura, diciamo, tra virgolette. Iscriveteci e partecipate alla nostra trasmissione, perché vogliamo sentire quello che avete da dirci, le vostre esperienze, le vostre storie, dove vivete, perché ci vivete. Come fanno a contattarci le nostre ascoltatrici? Possono scriverci sul nostro sito www.italianaconlavaligia.com oppure su Facebook, chattare con noi. E poi la cosa bella è che uno si può riascoltare e riascoltare, quindi anche tra qualche anno riascoltarsi è emozionante. Esatto. Raccontare un pezzo della propria esperienza. Esatto. Pensa che già io riascolto tanto la mia puntata e dico, ah guarda, così facevo. Perché se lo dimentica, l'Alzheimer galoppante. Come ero giovane. Ah sì, me lo ricordo. 3 mesi fa. Ti ricordi 3 mesi fa? E vabbè, insomma, è così. E chissà in quale continente sarete a quel punto già. È l'ora di salutarsi, vero? Sì, è l'ora di salutarci. Appuntamento la prossima settimana. Come sempre, buongiorno. Buon pomeriggio. E buonanotte.